Ciao a tutte ragazze e ragazze, fringuelli sperduti di campagna, ben ritrovati su Radio Wombat. Allora, oggi si riprende il discorso che si è iniziato 2 settimane fa, riprendiamo il Doom e lo portiamo avanti. Discorso che ho interrotto giovedì scorso perché mi è scorreggiato il cervello e ho fatto uno speciale su Daft Punk, dato il loro scioglimento improvviso. Nella prima puntata vi ho parlato dei Black Sabbath e di come hanno dato il via al genere Doom. Vi ho fatto ascoltare i loro primi 4 album, che sono dei CD fondamentali per comprendere al meglio i diversi sottogeneri che sono nati grazie alla loro musica. Poi vi ho parlato dei Pentagram, che, come un'altra band di cui vi parlerò subito, hanno dato via al Doom vero e proprio. E poi oggi finalmente inizierò a parlarvi dello Sludge, nello specifico partendo dalle sue radici hardcore, noise e industrial. Vi ricordo che sono partito dal Doom per arrivare a parlarvi dello Sludge Metal, per l'appunto, prima, e dello Stoner poi. Se vi siete persi la prima puntata, vi consiglio di andare ad ascoltarla, così da avere più chiaro il percorso che ho iniziato, che ho fatto, sperando che io ci sia riuscito. Quindi, come accennato nella prima puntata, dopo il sound del Black Sabbath, che si propagò nel mondo, molte band ne adottarono la sua sonorità, creando le prime forme di Doom. Tra le tante band, io ho estratto dalla giara i Pentagram, di cui vi ho già parlato, e gli statunitensi Saint Vitus, di cui inizierò subito a parlarvi. Ma prima, ragazzi, accendetevi la canna, stappate la birra. Vi do il benvenuto su Diabolus in Musica. Sigla! Allora ragazzi, i Saint Vitus si formarono intorno al 1979. Sono considerati una grande influenza per lo sviluppo del Doom, dello Sludge e dello Stoner. Il nome del gruppo l'ho preso dalla canzone dei Black Sabbath, Saint Vitus Dance, contenuta all'interno del volume 4. Da fan sfegatati, i Vitus, con i loro primi lavori, cercavano di recuperare lo spirito dei primi 4 album dei Sabbath, quelli più malvagi, sepolcrali e oscuri. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, mentre in Inghilterra si stava sviluppando la New Wave of British Heavy Metal, con i Judas Priest, i Saxon, gli Iron Maiden, i Motorhead, i Venom, che stavano reintroducendo il satanismo nella musica, che poi avrebbe influenzato la musica del futuro, come il black metal. I Saint Vitus, all'interno di questa scena, mescolavano il punk con i Saint Vitus furono i primi, all'interno di questa scena mondiale, e per un certo periodo gli unici, a suonare lenti in una controtendenza apparentemente suicida. La lentezza, ragazzi, sarà sempre la grande rivoluzione di questi generi, la lentezza proprio come manifesto culturale. L'esordio di Saint Vitus uscì nel 1984 per la casa discografica del chitarrista dei Black Flag, casa discografica importantissima per il periodo, la SST. Grazie al contatto di alcune band che avevano già registrato per la SST, i Saint Vitus, grandi fan dei Black Flag, che allora erano ancora all'epoca di Damage, primo album, d'esordio, riuscirono a tenere un contatto con loro. E l'incontro fra i metallari psichedelici Saint Vitus e il re dell'hardcore, Greg Ginn, chitarrista dei Black Flag e proprietario della SST, cambierà per sempre le sorti dell'heavy metal. I Black Flag, a questo punto ispirati dalle sonorità di Vitus, si lasciarono crescere i capelli, rallentarono la musica e, contaminando il loro violento hardcore con la lentezza brutale del Doom, crearono di fatto un primo prototipo di Sludge, con l'album My War, di cui vi parlerò dopo. Quindi veniamo a noi. Primo album omonimo dei Saint Vitus. L'album è un perfetto miscuglio di heavy metal, punk e psichedelia, con parti vocali che mantengono la band su un terreno hard. La produzione del CD è grezza, fatta di riff minimali, ritmiche sconquassanti che erano proprie dell'hardcore di allora. Passiamo all'ascolto. Vi faccio sentire l'ultimo brano del CD, che inizia come Black Sabbath e poi sbarella virando verso un sound proto-black metal psichedelico, furioso e frastornante. Questa è Burial at Sea, tratta dall'album omonimo di Saint Vitus, Saint Vitus, del 1984. Musica. Thank you. Questa era Burial at Sea, tratta dall'album omonimo d'esordio dei St. Vitus del 1984. Allora, dopo un tour in giro per gli Stati Uniti con i Black Flag, i St. Vitus si presero parecchi insulti e sputi, ottenendo però ancora più amore da coloro che già li apprezzavano. La scena hardcore li odiava, ma non quella anti-hardcore. Scena che magari tratterò più in là, farò una rubrica anche su questo. C'è la scena anti-hardcore, dicevo, che li avrebbe presi come riferimento assoluto di coraggio e intraprendenza. Band come i Soundgarden o i Melvins li presero come esempio per creare il proprio sound, e piano negli anni sarebbero emerse nel mondo diverse band dal suono doom. Nell'85 esce Hallows Victim, seconda fatica della band. Il sound che presenta il CD è molto diverso dal precedente, pur presentando le stesse sonorità. Ma non mi ci soffermo perché non mi piace, mi romperei i coglioni ad ascoltarlo. Eh sì. Quindi si passa direttamente al terzo album della band, Born Too Late, vero capolavoro della band, disco fondamentale per approcciarsi al doom e che contiene brani che fanno parte della storia del rock. A questo punto il cantante originario, stremato dalla vita on the road, lascia la band e si fa rimpiazzare dal leader degli Obsessed, Scott Wino. Scott Wino è un cantante più grezzo e meno epico, e sinceramente lo preferisco perché a me il sound epic mi fa cagare liscio, e permise alla band di iniziare una seconda fase della loro carriera musicale. Quindi andiamo ad ascoltarci questo gioiellino. Tratte da Born Too Late del 1986 dei St. Vitus, queste sono Born Too Late e Clear Wind of Pain. Thank you. Queste ragazze erano Born Too Late e Clear Wind of Pain dei St. Vitus, tratta dal loro terzo album Born Too Late del 1986. Bene, fringuelli, con i St. Vitus mi fermo qui, ho tutti gli elementi che mi servono per proseguire. Il doom da qui in poi si ramifica e dà vita a miliardi di altri sottogeneri che dalla metà degli anni 80 in poi si evolveranno e si presenteranno sotto altre spoglie. Ma per ora non ci interessa, magari più avanti farò una rubrica tutta incentrata sul doom. Anticipo che però sicuramente farò una puntata monografica sui Type O Negative, band strepitosa della vita, che rielaborò il Doom contaminandolo con il Gothic Rock. Ma adesso proseguiamo il nostro discorso e arriviamo finalmente a parlare del primo figlio e prodotto del Doom, lo Sludge Metal. Good guy. Lo Sludge. Che cazzo è lo Sludge? Tanto Sludge vuol dire fango, quindi già il nome dovrebbe suggerirvi con che tipo di musica abbiamo a che fare. C'è da dire che è un genere non sempre ben capito e apprezzato per via delle sue difficilmente digeribili caratteristiche. Il cantante degli Hyatt God, forse i re indiscussi dello sludge, in una intervista descrisse così il genere, cito: «Il soprannome fango ha apparentemente a che fare con la lentezza e la sporcizia e la sensazione generale di decadenza che i brani trasmettono. È un genere che, come vi dicevo nelle puntate precedenti, deriva dal doom. Quindi come il doom è lento e pesante». Ma a questo si aggiungono testi aggressivi e delle parti vocali urlate e veloci, tipiche dell'hardcore punk. Quindi è un ibrido che nasce dalle insoddisfazioni di alcuni punk verso una scena musicale che faceva uso esclusivamente della velocità come unico effetto scioccante, e da una minoranza di metallari barbuti che volevano continuare a suonare qualcosa di grezzo, pur mantenendo la possenza di un bel riff di chitarra. Quindi il punk e il metal sono i principali ingredienti per ottenere questa succulenta fanghiglia, ma quello che conferirà alla ricetta il tocco definitivo, la morte sua, saranno le influenze derivanti dall'industrial e dal noise. Per non parlare poi di tutte le droghe che questi giovanotti ingurgitavano, inalavano o si iniettavano. Devo ruttare, ma non esce. In questa puntata inizieremo a parlare degli album che daranno vita al genere. Album non propriamente sludge, ma che ne portano con sé le caratteristiche che poi saranno replicate da altre band negli anni 90, codificando così il sound, rendendolo commestibile per le masse. Infatti lo sludge prenderà definitivamente forma solo nel 1990, con gli esordi degli Hyatt God e dei Crowbar, per poi cambiare forma innumerevoli volte negli anni, in base alla provenienza e alle diverse influenze. Bon, iniziamo con la musica. Partiamo da due album. Lo specifico da due brani tratti da questi due album. Uno è Black Sabbath, che vi ho già fatto ascoltare nella puntata precedente, quindi non mi ripeterò. Black Sabbath tratta dall'album dei Black Sabbath, la prima traccia del CD, dell'album d'esordio. L'altro invece ve ne farò sentire un piccolo estratto. Si tratta del brano We Will Fall, dei figli del punk dall'andamento lento, dinoccolato e rumoroso, degli Stooges. Tratto dal loro primo omonimo album del 1969. Il brano presenta, con la sua lentezza liturgica e sofferta, una prima forma primitiva del sound sludge. Perciò diamo il via alle danze, bella gente. Questa è una piccola parte della lunghissima e oscura We Will Fall degli Stooges. Thank you. spettrale, ragazzi. Figa, figa, figa, figa. E quindi questo è considerato uno dei primi sound sludge, diciamo, data la sua lentezza, no? Come si diceva prima. Come vi ho già detto, nello sludge i riflenti oscuri alla Sabbath sono senza dubbio uno dei punti fermi del genere, ma diversamente dal quasi contemporaneo Doom, dove i riff di Yomi, Tony Iommi, chitarrista di Black Sabbath, rimangono in un ambiente hard e heavy. Per ottenere un sound sludge dovremmo prendere i Sabbath e catapultarli in una jam polverosa nella sala prove dei Bad Brains, nota band hardcore punk degli anni Ottanta. Ed ecco quindi che si arriva all'album prototipo e padrino di tutto lo sludge, My War dei giganti Black Flag. Quest'album del 1984 è diviso in due parti. La prima parte è tipicamente hardcore, mentre la seconda presenta un sound più opprimente e ripetitivo. Praticamente sono i Sabbath suonati con un impeto hardcore. Ora vi faccio ascoltare due o tre tracce della prima parte del CD, poi vi farò ascoltare un brano della seconda parte. Ma non prima di aver detto due parole sulle influenze che aiutarono i Black Flag a creare questo album della Madonna e sull'impatto che questo ebbe sulle scene musicali future e di quell'epoca. Quindi facciamo partire questo mega CD. Questo è The Swinging Man dei Black Flag, track tratta dal loro al secondo album del 1984, My War. Abbiate pietà e alzate il volume. Pugno in bocca, ragazzi. E questa era The Swinging Man, tratta da My War dei Black Flag del 1984. Allora, fringuelli e fringuelle, su qualsiasi libro di musica o articolo musicale leggerete che questo è stato un CD fondamentale. Al suo interno ci sono i semi dello stoner, del grunge e per l'appunto dello sludge. All'interno della scena hardcore di quegli anni, che ormai aveva già dato tutto quello che poteva dare, si inserirono i Black Flag con questo album folle. un album intriso di una miriade di influenze molto varie tra di loro. Una caratteristica questa che permise alla band di staccarsi da tutto il resto e creare qualcosa di fresco e dirompente. A differenza dei loro colleghi, nella loro musica, i Black Flag ci infilarono non soltanto le influenze dei Sabbath o dei St. Vitus, ma anche influenze di band più bizzarre e sperimentali, come ad esempio i Flipper, i Big Black, gli Scratch Acid. Ed ecco che così nacque My War. Per non parlare poi di tutte le influenze jazz o prog che il chitarrista inserì in un modo o nell'altro nei suoi riff, influenzando anche il futuro sound jazzcore di John Zorn, che sicuramente tratterò perché è un musicista fuori di testa, e dei nostri connazionali Zoo. Influenze che poi il chitarrista fece esplodere nell'EP del 1985, The Process of Weeding Out, che sembra che come se Ornette Coleman avesse ingoiato Gigi Allin e avesse trasformato il suo sax plastificato in una chitarra elettrica. Insomma, un album importantissimo che riesce a far convivere al suo interno elementi opposti tra di loro, creando così strambelie e cortocircuiti musicali estremamente affascinanti. E inseminando l'hardcore con il nascente doom, generarono di fatto lo sludge. Ok, ascoltiamo questo cazzo di CD. Vi faccio ascoltare altri due brani ancora della prima parte dell'album, e poi passiamo ad un brano della seconda parte, che è quella che ci interessa di più. Quindi, signore e signori, in ordine queste sono Beat My Head Against the Wall e I Love You, tratti da My War, secondo album dei Black Flag. Rock and roll! Ed ecco che parte I Love You. Rules my life. Ok, di corsa passiamo al pezzo importante del CD, il pezzo da 90. Primo sound prototipo del futuro sludge, Nothing Left Inside. Così via ragazzi, questa era Nothing Left Inside dell'album My World dei Black Flag del 1984. Come dicevo prima, questo è il primo sound riconoscibile nella storia della musica che in un modo o nell'altro fece nascere il genere, ecco, che lanciò le sonorità del genere. Vi sfido a non rivederci questo brano nei sound dei prossimi gruppi che affronteremo, è tutto in questo pezzo ragazzi. Andiamo avanti. I Black Flag continuano la loro carriera sfornando CD sempre grezzi e monumentali, fino allo scioglimento che avvenne più o meno dopo l'uscita dell'ultimo album, In My Head. Il cantante Henry Rollins, figura stratosferica, proseguì la sua carriera musicale accostando numerosissime band. Verso la fine degli anni Ottanta dà vita alla Rollins Band, sfornando musica di altissima qualità pregna di violenza e distruzione. Henry Rollins è una figura cardine della scena hardcore punk californiana ed è un'icona di culto nel rock alternativo. Ha anche creato diversi programmi musicali televisivi e radiofonici, che fa ancora tuttora. Vi consiglio tra l'altro di andare ad ascoltare i suoi broadcast musicali su KCRW, perché sono fenomenali, ragazzi. Comunque vi metto il link in descrizione sulla pagina di Diabolus in Musica. Prima di chiudere questa parentesi hardcore, vorrei farvi ascoltare un brano della Rollins Band, perché ci piace. Tratta dall'album Waked del 1994. Questa è Fringuelli, Fringuelle è Liar. Seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street, and now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me, and your whole world changes, because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses, and you drop all your fears, and you trust me completely. I'm perfect in every way, as I make you feel so strong and so powerful inside. So lucky. But your ego obscures reality, and you never bother to wonder why things are going so well. You want to know why? 'Cause I'm a liar. Yeah, I'm a liar. I'll tear your mind out. I'll burn your soul. Standing eyes, and I'll tell you things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. And all the time that you're needing me is just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. because now I see the destructive power of a lie. They're stronger than truth. I can't believe I ever hurt you. I swear, I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. I will never lie to you again. No, I swear. I will never tell a lie. I will never tell a lie. No, no. E questa era Liar dei Rollins Band, tratta dal loro album del 1994, Wait. Quanta energia distruttiva, ragazzi, bellissimo. Comunque andatevelo ad ascoltare questo CD, ma in modo più ampio tutta la loro discografia, e andate a approfondire anche la figura di Harry Rollins, perché ha fatto un sacco di cose, tanta musica bellissima, programmi televisivi, interviste. È un uomo fantastico, bellissimo. Quindi vi consiglio di approfondirlo. Andiamo avanti. Qualche anno prima dei Black Flag, un'altra rumorosa band scosse il mondo dell'underground con il suo sound grezzo, lento e ipnotico. I Flipper. Questa stranissima band arriva a noi grazie al supporto di pezzi grossi come Nirvana, Melvins e Madonna, che hanno più volte citato la band fra le loro influenze più importanti, sia sonore che attitudinali. Vi faccio ascoltare subito un loro brano, che è un riff di basso che in un colpo solo inventa Nirvana e Weed Eater. Tratta da Generic del 1982 dei Flipper. Ecco a voi Sex Bomb. Ragazzi, questi erano i folli sgangherati psicopatici Flipper con Sex Bomb, tratta da Generic del 1982. Ragazzi, andiamo avanti. Un'altra influenza e lezione tenuta bene a mente dai futuri Sludger sarà anche quella derivata dal Crustpunk, che è un genere nato dalla contaminazione dell'hardcore punk con il metal estremo, come quello degli Amebix e dei Doom. Non ve li faccio ascoltare perché sono... non mi piacciono e... andiamo avanti. Adesso ragazzi veniamo a noi. Adesso questa è una delle band che non vedevo l'ora di affrontare e di farvi ascoltare. Una delle band più belle che affronteremo in questa rubrica. Ma prima andiamo un passo alla volta. Ok, adesso abbiamo tutti questi elementi primordiali allo stato grezzo. Sono solo intuizioni vaghe. E c'è bisogno quindi di una band che deve essere in grado di prendere tutti questi impulsi e queste intuizioni musicali ed incanalarle nel modo giusto per dare vita al leggendario Sludge. In effetti una band del genere c'è stata. Venne a noi. Questa band si chiama Melvins. Bene ragazzi, ragazze, i Melvins sono Dio. Hanno inventato tutto loro. Il loro modo di suonare è super cazzuto, ha influenzato tutti. Tutta la futura scena grunge, l'alternative metal dei Tool, lo sludge metal più estremo dei Cobar, come quello più prog dei Mastodon. Queste sono cose venute fuori grazie a loro. Senza di loro non sarebbe nato un cazzo di niente, ok? E vi assicuro, io li ho sentiti live, ragazzi, anni fa, ed è stata un'esperienza incredibile, fotonica. Il loro sound è proprio un calcio in bocca che ti prende uno schiaffo sulla nuca... ma all'improvviso è veramente qualcosa, sono stati incredibili, wow. Però parliamo un po' della loro storia. Nei primi anni 80, nella provincia di Seattle, un folle dei capelli improbabili appassionati di punk rock di nome Buzz Osborne fondò i Melvins. Buzz è un chitarrista cazzutissimo e rivoluzionario. Già da allora, dai primi CD dei Melvins, maneggiava con sicurezza riff crossover metal punk molto prima che divenissero uno standard, e che ancora non sapeva che la sua band sarebbe diventata leggendaria. La band, infatuata del movimento punk hardcore, registrò le prime cose nell'83. Per lo più erano provini, live, registrazioni grezze, eccetera. Nell'85 la band ebbe la prima apparizione ufficiale all'interno di una compilation che si chiamava Deep Six, che documentava la scena musicale di Seattle, nella quale tra l'altro apparvero anche i primissimi Soundgarden. Alla band si era già aggiunto Del Crover, che rappresentò per il gruppo il batterista definitivo in tutti i sensi. Grazie al suo potente e creativo tocco, i Melvins iniziarono a mettere a fuoco lo stile che li contraddistinse. È inutile dirlo che influenzò enormemente decine di band. Nell'86 diedero vita al loro primo EP omonimo, chiamato poi successivamente Six Songs. La musica che ne uscì fu uno strano ibrido punk metal che poi diventerà il suono di Seattle, ovvero il grunge. Inseguono varie idee musicali in questo CD e tra un brano punk hardcore e uno hard rock si estraggono i primi riff proto sludge. Tutti ebbero da imparare da questo CD, nessuno escluso. Vi faccio ascoltare alcuni brani tratti da questo incredibile EP. Ne prendiamo tre e ce li spariamo tutti insieme, ragazzi e ragazze. In ordine, queste sono Easy As It Was, Grinding Process e Pencil. Vai con i Melvins. We'll be right back. Madonna che bestie, ragazzi. Questi sono i Melvins. E questo era il loro EP d'esordio, Six Songs, del 1986. E come avete sentito, praticamente i Melvins sono una fusione di tutte le band che abbiamo ascoltato finora, pompati e pieni di steroidi e più violenti. Bene, ragazzi, siamo agli sgoccioli. Il tempo è tiranno, quindi per oggi la finiamo qui. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, proseguirò, vi parlerò ancora di Melvins per un po' di CD, perché sì, perché sono fuori di testa e perché sono molto importanti per lo sludge, e poi continuerò a parlare delle altre influenze noise e industrial, e poi finalmente arriveremo alla città dove, a New Orleans, dove tutto nacque veramente, dove lo sludge nacque per davvero. Per ora queste sono ancora influenze, andranno poi modellate da queste band della Louisiana, di quelle terre fangose e paludose. Quindi, prima di salutarvi, vi lascio a due pezzi di una band che per ora non c'entra nulla, ma c'entrerà più là. Sono i Super Giant Ritual, super gruppo fondato da Phil Anselmo, un gruppo post-Pantera. E all'interno ci sono il bassista, che è il nipote di Hank Williams, il chitarrista degli Hyatt God, il chitarrista di Christ Inversion, altro progetto parallelo di Phil Anselmo, e il batterista, che non mi ricordo di che gruppo faceva parte, ma è un gruppo violentissimo di un hardcore mischiato con heavy metal fuori di testa. Il CD è Use Once and Destroy, e queste, ragazzi, sono Fuck Your Enemy e It Takes No Guts. Ho fatto piacere, ragazzi, vi do il appuntamento al prossimo giovedì qui su Radio Wombat e qui su Diabolus in Musica. Pace e amore. Madonna come parte. They were the last around.